GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Berlino non condivide la proposta di Bruxelles di imporre dazi antidumping sulle importazioni nell'Unione Europea dei pannelli solari cinesi, bollandola come un grave errore. La Commissione deve puntare su una soluzione negoziata e sul dialogo invece che sulle minacce, ha detto il vice cancelliere tedesco Philipp Rösler, aggiungendo che l'industria tedesca è giustamente molto preoccupata anche per le potenziali ritorsioni cinesi sulle esportazioni. Oggi, tra l'altro, il Financial Times ricorda in un lungo articolo che domenica prossima il premier cinese Li Keqiang sarà in visita in Germania, unica tappa europea del suo primo viaggio all'estero. Alla corrida grazie ai fondi europei, ma ora alcuni europarlamentari si ribellano. Se siete amanti degli animali, tappatevi le orecchie. Ogni anno 130 milioni di fondi europei vengono utilizzati impropriamente per finanziare le corride in Spagna. Queste risorse dovrebbero andare al sostegno dell'agricoltura, invece finiscono per alimentare la tauromachia e il business che si muove intorno a questa pratica. È quanto hanno denunciato a Bruxelles alcuni eurodeputati spagnoli. We would like to warn taxpayers in Europe that they're paying for bullfighting in Spain. Vogliamo far sapere agli europei che pagano le tasse dove finiscono i loro soldi. Senza questi fondi le corride non potrebbero tenersi, ha detto Alfred Bosch, membro della Camera dei Deputati in Spagna. Un business tra l'altro in rosso. Senza questa forma di sostegno pubblico la stragrande maggioranza delle corride chiuderebbe i battenti. Da qui la richiesta di introdurre nella prossima programmazione una norma ad hoc per impedire che le risorse vadano all'allevamento dei tori da combattimento, un'attività che però è diffusissima in Spagna, con l'eccezione della Catalogna che l'ha bandita nel 2012. Ogni anno vengono promosse più di 13.000 feste popolari in cui si celebrano le corride. Si stima che i tori uccisi siano intorno ai 30.000 l'anno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. No ai paradisi fiscali nel cuore dell'Europa, che invece deve trovare fondi consistenti per dare una risposta a quasi 6 milioni di giovani disoccupati senza un futuro. Alla vigilia del Consiglio europeo, il vicepresidente dell'Europarlamento Gianni Pittella ribadisce le priorità sulle quali i 27 dovrebbero finalmente mettere un punto fermo. È impensabile che nel cuore dell'Europa possa mantenersi un paradiso o più paradisi fiscali, ha detto, e dobbiamo assolutamente cancellare queste aree di elusione, di evasione e di riserve di patrimoni finanziari. Così Pittella, lo ricordo, vicepresidente del Parlamento europeo. Noi con questa notizia abbiamo chiusa. GR Europa torna domani a partire dalle 15 e qualche minuto. Buon pomeriggio. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.